Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Se ricordate, l'ultima volta ci siamo lasciati sul principe Balkonski, che è rimasto ferito in battaglia, e qui su quell'immagine straordinaria, bellissima, del cielo, del suo sguardo sul cielo altissimo, eterno sopra di lui, che lo spinge a delle riflessioni sul senso della vita e della morte. Adesso però dobbiamo seguire le vicende di Nikolaj Rostov. Al principio del 1806 Nikolaj Rostov tornò a casa in licenza. Denisov andava anche lui a casa, a Voronezh, e Rostov lo persuase a venire con lui fino a Mosca e a fermarsi un poco in casa dei suoi. Alla penultima stazione Denisov, avendo incontrato un compagno, aveva vuotato con lui 3 bottiglie di vino e, avvicinandosi a Mosca, malgrado le scosse della strada, non si svegliava, sdraiato sul fondo della slitta di posta accanto a Rostov, il quale, a misura che si avvicinavano a Mosca, diventava sempre più impaziente. Finalmente la slitta prese a destra per accostarsi al portone. Rostov vide sopra al suo capo il noto cornicione con lo stucco sbocconcellato, l'entrata, il pilastrino sul marciapiede. Egli saltò dalla slitta, mentre era ancora in moto, ed entrò di corsa nel vestibolo. La casa era lì, immobile, indifferente, come se non le importasse affatto di chi era arrivato. Nel vestibolo non c'era nessuno. «Dio mio, staranno tutti bene?» pensò Rostov, fermandosi un momento col cuore che gli veniva meno, e poi subito ripigliando la corsa attraverso il vestibolo e per i gradini un po' consumati che gli conosceva. Alla porta, sempre la stessa maniglia, per la cui poca nettezza si arrabbiava la contessa, girava con la stessa facilità. Nell'anticamera ardeva una candela di sego. Rostov, dimenticandosi totalmente di Denisov, non volendo che alcuno lo annunziasse, si tolse la pelliccia e in punta di piedi andò di corsa nella grande sala buia. Tutto era come prima, gli stessi tavolini da gioco, lo stesso lampadario nella sua fodera di tela, ma qualcuno già aveva visto il padroncino, ed egli non fece in tempo a giungere nel salotto che qualcuno si precipitò fuori impetuosamente come una bufera da una porta laterale e si mise ad abbracciarlo e a baciarlo. Una seconda, una terza persona sgusciò fuori da una seconda, da una terza porta, e ancora abbracci, baci, gridi, lacrime di gioia. Egli non poteva distinguere chi fosse il babbo, chi Natascia, chi Petia. Tutti gridavano, parlavano e lo baciavano nello stesso tempo. Soltanto la madre non c'era fra loro, e di questo si ricordava. Natascia, dopo averlo piegato verso di sé, gli coprì il viso di baci e poi balzò indietro e, presolo per la falda della giubba all'ungherese, si mise a saltare come una capra, rimanendo sempre allo stesso posto, e mandava acuti strilli. Da tutte le parti c'erano degli occhi luccicanti di lacrime, di gioia e di amore. Da tutte le parti delle labbra che cercavano un bacio. Sonia, rossa come una ciliegia, si teneva anch'essa attaccata al braccio di Nikolaj e splendeva tutta di uno sguardo beato, fisso negli occhi di lui che attendeva di incontrare. Sonia aveva già 16 anni ed era molto bella, specialmente in quel momento di animazione giubilante ed entusiastica. Ella lo guardava senza levare gli occhi da lui, sorridendo e trattenendo il respiro. Egli le gettò uno sguardo di riconoscenza, ma aspettava e cercava ancora qualcuno. La vecchia contessa non era ancora venuta. Ed ecco si udirono dei passi sulla soglia, passi così rapidi che non potevano essere quelli di sua madre. Eppure era lei, in un abito nuovo che egli non conosceva ancora, fatto durante la sua assenza. Tutti lo lasciarono ed egli corse verso di lei. Quando furono vicino, lei gli cadde sul petto, singhiozzando. Ella non poteva sollevare il viso e lo premeva soltanto contro i freddi alamari della sua giubba. Denisov, non osservato da alcuno, era entrato nella stanza e stava lì in piedi anche lui e, guardando gli altri, si asciugava gli occhi. Tutti quei visi felici, pieni di entusiasmo, si volsero alla figura irsuta di Denisov e lo circondarono. «Caro Denisov!» strillò Natascia, che era fuori di sé dall'entusiasmo, e fece un balzo verso di lui, l'abbracciò e lo baciò. Tutti rimasero confusi per quell'atto di Natascia. Anche Denisov era arrossito, ma sorrideva e, presa la mano di Natascia, la baciò. Denisov fu condotto nella camera preparata per lui e tutti i Rostov si riunirono nella stanza dei divani, intorno a Nikolushka. La mattina dopo, seduto nella sua antica stanza da studio, sul divano coi cuscini sui braccioli e guardando in quegli occhi indiavolatamente animati di Natasha, Rostov era rientrato in quel mondo familiare della sua infanzia che non aveva significato per nessuno all'infuori di lui, ma che gli aveva dato i piaceri migliori della sua vita. Natasha a un tratto arrossì. «Ti ricordi prima di partire? Sonia dice che tu devi dimenticare tutto. Ha detto, io l'amerò sempre, ma lui che sia libero. Vero che è una cosa magnifica, nobile, no? Molto nobile, no?» domandava Natasha, così seria e agitata che evidentemente quel che diceva ora doveva già averlo detto prima fra le lacrime. Rostov si fece pensieroso. «Io non riprenderò mai la mia parola», disse. «E poi Sonia è così graziosa che bisognerebbe essere stupidi per rinunziare alla propria felicità». «No, no», gridò Natasha. «Noi ne abbiamo già parlato insieme. Sapevamo che avresti detto così. Ma questo non va, capisci? Perché se tu dici questo, se ti credi legato dalla tua parola, ne viene che lei ha l'aria di averlo detto apposta. Ne viene che tu la sposeresti per forza. E non è così che deve essere». Rostov capì che era stato ben pensato. Sonia già il giorno innanzi lo aveva colpito per la sua bellezza. Oggi che l'aveva riveduta di sfuggita, gli era parsa anche più bella. «Perché dunque non l'avrebbe amata e magari sposata?» pensava Rostov. Ma adesso aveva ancora tante altre gioie e tante altre preoccupazioni. «Ma benissimo», disse, «poi ne parleremo». «Ah, come son contento di vederti», ripeté ancora. «E Boris, non l'hai tradito?» domandò poi il fratello. «Che sciocchezze», gridò ridendo Natasha. «Io non penso né a lui né a nessuno e non ne voglio sapere. Io non voglio sposare nessuno. La stessa cosa dirò a lui appena lo vedrò». «Ma queste sono tutte bazzecole», seguitava a dire Natasha chiacchierando. «E Denisov è simpatico?» domandò. «Sì, è simpatico». «E ora addio, su, vatti a vestire. Non è mica terribile, Denisov». «Perché terribile?» domandò Nicolà. «No, Vaska è eccellente». «Lo chiami Vaska? Curioso. Ed è molto simpatico. Molto simpatico. Su, vieni presto a prendere il tè. Lo prendiamo tutti insieme». E Natasha si alzò sulla punta dei piedi e uscì dalla stanza come fanno le ballerine, ma sorridendo come sorridono soltanto le fanciulle felici di 15 anni. Incontrandosi nel salotto con Sonia, Rostov arrossì. Egli non sapeva come comportarsi con lei. Il giorno innanzi s'erano baciati nel primo momento di gioia del rivedersi, ma oggi sentivano che era impossibile farlo. Egli sentiva che tutti, la madre, le sorelle, lo guardavano interrogativamente e aspettavano di vedere che contegno avrebbe tenuto con lei. Egli le baciò la mano e, chiamandola Sonia, le diede del voi. Ma i loro occhi, incontrandosi, si diedero del tu e si baciarono teneramente. Ella, col suo sguardo, gli chiedeva perdono di aver osato, per mezzo di Natasha, ricordargli la sua promessa e lo ringraziava per il suo amore. Egli, col suo sguardo, la ringraziava per la libertà offertagli e diceva che, in un modo o nell'altro, non avrebbe mai cessato di amarla, perché era impossibile non amarla. E proprio in questi stessi giorni, in cui Nicolai è tornato a casa, il padre, il vecchio conte Ilya Andreevich Rostov, è occupatissimo per organizzare un pranzo al club inglese per il ricevimento del principe Bagration. Appena ricevuta la notizia della battaglia di Austerlitz, Mosca era stata perplessa. A quel tempo i russi erano così avvezzi alle vittorie che, ricevendo la notizia della disfatta, alcuni semplicemente non vi credettero. Altri cercarono la spiegazione di un fatto così strano in qualche causa straordinaria. I moscoviti sentivano che c'era qualcosa di brutto e che era difficile giudicare quei tristi avvenimenti e che perciò era meglio tacere. Ma dopo un certo tempo, come i giurati che escono dalla sala delle deliberazioni, riapparvero anche i pezzi grossi che dicevano la loro opinione al club inglese. E tutti parlarono forte e chiaro. Furono trovate le cause di quel fatto incredibile, inaudito e impossibile, cioè della disfatta dei russi, e tutto diventò chiaro e in ogni angolo di Mosca si disse una sola e medesima cosa. Le cause erano queste: il tradimento degli austriaci, il cattivo approvvigionamento dell'esercito, l'incapacità di Kutuzov e, si diceva sottovoce, la giovinezza e l'inesperienza dell'imperatore, che s'era affidato a persone malvagie e inette. Ma le truppe russe, dicevano tutti, erano straordinarie e avevano fatto prodigi di valore, I soldati, gli ufficiali, i generali erano tutti eroi, ma l'eroe degli eroi era il principe Bagration, reso glorioso dall'azione di Schöngraben e dalla ritirata da Austerlitz, dove egli solo aveva ricondotto la sua colonna in buon ordine e respinto per tutta la giornata un nemico due volte superiore. Che per Mosca Bagration fosse diventato un eroe era dovuto anche al fatto che a Mosca egli non aveva attinenze e vi era estraneo. Nella sua persona si rendeva il debito omaggio al guerriero, all'uomo semplice, senza legami e senza intrighi, al soldato russo che si riallacciava ancora, mercé i ricordi della campagna d'Italia, al nome di Suvorov. Oltre a ciò, nel rendergli simili onori, si mostravano nel miglior modo il malcontento e la disapprovazione per Kutuzov. Il 3 marzo, per tutte le sale del club inglese, c'era un brusio di voci che discorrevano. E come api nel volo di primavera, i soci e gli invitati del club andavano avanti e indietro, sedevano, stavano in piedi, si incontravano e si separavano, chi in uniforme, chi in marsina e qualcuno anche con la testa incipriata. I servitori in livrea, in parrucca, con le calze di seta e gli scarpini, stavano ritti ad ogni porta e cercavano di seguire attentamente ogni movimento dei soci e degli invitati per offrire i loro servigi. I presenti erano in maggioranza persone vecchie e rispettabili, con larghi visi soddisfatti, grosse dita, voci e gesti sicuri. Una piccola parte dei presenti era formata di invitati casuali, specialmente giovani, fra i quali erano Denisov, Rostov e Dolokhov, che era di nuovo ufficiale nel reggimento Semyonovskij. Sui visi dei giovani, e particolarmente dei militari, c'era l'espressione di quel senso di sdegnoso rispetto verso i vecchi, che par che dica alla generazione passata: noi siamo pronti a rispettarvi e ad onorarvi, ma ricordatevi che l'avvenire è per noi. Pierre, che per ordine della moglie si era lasciato crescere i capelli e tolti gli occhiali e andava vestito alla moda, passeggiava per le sale con viso triste ed annoiato. Come dappertutto, anche lì era circondato da una folla di gente che si inchinava davanti alla sua ricchezza e che egli, per l'abitudine di dominare, trattava con distratta sdegnosità. Per la sua età egli sarebbe dovuto stare coi giovani, ma per la sua fortuna e le sue relazioni faceva parte dei gruppi degli invitati più anziani e più rispettabili e perciò passava da un gruppo all'altro. Squillarono i campanelli. I membri della direzione si precipitarono fuori. Gli invitati, sparsi per le diverse stanze, come chicchi di grano scossi su di una pala, si accalcarono in un solo gruppo e si fermarono nel grande salone. Sulla porta dell'anticamera comparve Bagration. Camminava sul pavimento di legno della sala d'ingresso, un po' timido e imbarazzato, non sapendo che cosa fare delle sue mani. Gli era più abituale e più facile camminare sotto le palle, in un campo arato, come aveva marciato alla testa del reggimento di Kursk a Schöngraben. I membri della direzione del club lo accolsero vicino alla prima porta, dicendogli in poche parole la gioia che provavano vedendo un ospite così gradito, e senza aspettare la sua risposta, come se ne prendessero possesso, lo circondarono e lo condussero nel salone. Pierre era seduto di faccia a Dolokhov e a Nikolai Rostov. Egli mangiava molto e con avidità, e beveva anche molto, come sempre. Ma quelli che lo conoscevano intimamente vedevano che in lui era avvenuto quel giorno un grande mutamento. Il suo viso era scuro e abbattuto. Pareva che non vedesse e non udisse nulla di ciò che accadeva intorno a lui e pensasse a una cosa sola, penosa e non ancora risolta. Questa questione non ancora risolta che lo tormentava erano le allusioni all'intimità di Dolokhov con sua moglie, fattegli a Mosca dalla principessina, e una lettera anonima, ricevuta la mattina stessa, nella quale era detto, con la volgare ironia propria di tutte le lettere anonime, che egli, anche attraverso i suoi occhiali, ci vedeva poco, e che la relazione di sua moglie con Dolokhov era un segreto soltanto per lui. Pierre non aveva assolutamente prestato fede né alle allusioni della principessina né alla lettera, ma ora gli era terribilmente penoso guardare Dolokhov seduto davanti a lui. Ogni volta che il suo sguardo si incontrava a caso coi begli occhi sfrontati di Dolokhov, Pierre sentiva qualcosa di orribile, di mostruoso, sollevarglisi dentro all'anima e subito si voltava da un'altra parte. Vedeva chiaramente che quanto era detto nella lettera poteva essere la verità, o almeno avrebbe potuto parere la verità, se non si fosse trattato di sua moglie. Senza volere, Pier si ricordava come Dolokhov, reintegrato in tutto dopo la campagna, fosse tornato a Pietroburgo e venuto da lui. Profittando dei suoi antichi rapporti di amicizia e di crapula con Pier, Dolokhov era sceso senz'altro a casa sua e Pier lo aveva accolto e gli aveva prestato del denaro. Pier si ricordava come Hélène, sorridendo, avesse espresso il suo malcontento che Dolokhov abitasse in casa loro e come Dolokhov cinicamente gli avesse vantato la bellezza di sua moglie e come, da allora fino all'arrivo a Mosca, non si fosse più allontanato un momento da loro. «Su, ora alla salute delle belle donne», disse Dolokhov. E con un'espressione seria, ma con un sorriso agli angoli della bocca, si rivolse a Pier col bicchiere in mano. «Alla salute delle belle donne e dei loro amanti», disse. Pier, con gli occhi bassi, beveva dal suo bicchiere senza guardare Dolokhov e senza rispondere. Il domestico che distribuiva la cantata di Kutuzov ne pose un esemplare davanti a Pier, come ad ospite più ragguardevole. Egli stava per prenderlo, ma Dolokhov si piegò in avanti, gli tolse il foglio di mano e cominciò a leggere. Pier gettò uno sguardo a Dolokhov e poi abbassò le pupille. Quel non so che di tremendo e di mostruoso che lo aveva turbato durante tutto il pranzo si sollevò e si impadronì di lui. Si curvò sulla tavola con tutto il suo grosso corpo. Dolokhov guardò Pier coi suoi occhi luminosi, allegri e crudeli, e con un sorriso, come se dicesse «Ecco quel che mi piace». Pallido, col labbro tremante, Pier gli strappò il foglio. Voi siete un mascalzone. Io vi sfido», disse, e scostando la sedia si alzò da tavola. Nello stesso istante che Pier faceva questo e pronunziava queste parole, sentì che la questione della colpevolezza di sua moglie, che l'aveva tormentato in quelle ultime 24 ore, era definitivamente e senza dubbio possibile risolta in senso affermativo. Egli la odiava e si sentiva per sempre staccato da lei. Malgrado le preghiere di Denisov perché Rostov non si mischiasse in quella faccenda, Rostov accettò di essere padrino di Dolokhov e dopo pranzo si abboccò con Nesvisky, padrino di Bezukhov, riguardo alle condizioni del duello. Il giorno seguente, alle 8 del mattino, Pier, insieme con Nesvisky, giunse al bosco di Sokolniki e vi trovò già Dolokhov, Denisov e Rostov. Pier quella notte non aveva dormito. Guardava distratto intorno a sé e corrugava le sopracciglia come se il sole fosse troppo vivo. Due pensieri lo occupavano per intero. La colpa di sua moglie, sulla quale dopo la nottata insonne non gli rimaneva il minimo dubbio, e l'innocenza di Dolokhov, che non aveva nessuna ragione di rispettare l'onore di un uomo che per lui era un estraneo. Erano circa 3 minuti che tutto era pronto, eppure si indugiava a cominciare. Tutti tacevano. I due avversari avanzarono per i sentieri tracciati e si fecero sempre più vicini, riconoscendosi attraverso la nebbia. Avevano il diritto, mentre avanzavano fino al limite, di sparare quando volevano. Dolokhov camminava lentamente, senza alzare la pistola, fissando in viso l'avversario coi suoi chiari e lucenti occhi celesti. Sulla sua bocca c'era, come sempre, qualcosa che somigliava a un sorriso. Alla parola tre, Pier avanzò a rapidi passi, deviando dal sentiero tracciato e camminando nella neve intatta. Dopo aver fatto un 6 passi ed essere uscito dal sentiero sulla neve, Pier si guardò ai piedi, gettò di nuovo una rapida occhiata a Dolokhov e, premendo il dito come gli avevano insegnato, sparò. Non aspettandosi un rumore così forte, Pier trasalì al proprio colpo. Poi sorrise della sua stessa impressione e si fermò. Il fumo, che la nebbia rendeva particolarmente denso, gli impedì nel primo momento di vedere. Ma l'altro colpo che egli attendeva non seguì. Si udirono soltanto i passi affrettati di Dolokhov e la sua figura apparve attraverso il fumo. Con una mano si premeva il fianco sinistro. Con l'altra teneva la pistola abbassata. Il suo viso era pallido. Rostov accorse e gli disse qualche cosa. «No, no», proferì Dolokhov a denti stretti. «No, non è finito». E fatti ancora alcuni passi vacillanti e incerti, giungendo fino alla sciabola, cadde sulla neve accanto ad essa. La sua mano sinistra era insanguinata. Egli la pulì col soprabito e vi si appoggiò. La sua faccia era bianca, accigliata e tremava. Pierre, trattenendo a stento i singhiozzi, era corso verso Dolokhov e voleva già oltrepassare lo spazio che separava i due limiti, quando Dolokhov gridò «alla barriera!» e Pierre, avendo capito di che si trattava, si fermò presso la propria sciabola. Soltanto 10 passi li dividevano. Dolokhov si abbandonò col capo sulla neve, la morse avidamente, alzò di nuovo il capo, si raddrizzò, riunì i piedi e si mise a sedere, cercando un centro di gravità che fosse stabile. Inghiottiva la neve gelida e la succhiava, e le sue labbra tremavano, ma i suoi occhi, continuando a sorridere, luccicavano per lo sforzo e per la collera, mentre egli raccoglieva le ultime forze. Alzò la pistola e prese la mira. Pierre, con un mite sorriso di compassione e di pentimento, con le braccia e le gambe aperte in atto di abbandono, stava davanti a Dolokhov, presentandogli il suo largo petto, e lo guardava con tristezza. Denisov, Rostov e Nesvitsky socchiusero gli occhi. Nello stesso momento sentirono il colpo e un urlo selvaggio di Dolokhov. «Fallito!» gridò Dolokhov e cadde spossato sulla neve, col viso in giù. Pierre si afferrò la testa con le mani e, voltandosi indietro, si avviò verso la foresta, camminando nella neve e pronunziando ad alta voce parole incomprensibili. «Che sciocchezza! Sciocchezza! La morte, la menzogna!» ripeteva, aggrottando le sopracciglia. Nesvitsky lo fermò e lo ricondusse a casa. Rostov e Denisov portarono via Dolokhov ferito. Dolokhov, in silenzio, con gli occhi chiusi, giaceva nella slitta e non rispondeva una parola alle domande che gli si facevano. Ma giunto a Mosca, a un tratto rinvenne e, alzando con difficoltà la testa, prese la mano di Rostov che gli sedeva accanto. Rostov fu colpito dall'espressione affatto mutata ed inaspettata, rapita tenerezza che aveva il viso di Dolokhov. «Ebbene, come ti senti?» domandò Rostov. «Male. Ma non si tratta di questo, amico mio», disse Dolokhov con voce rotta. «Dove siamo? Siamo a Mosca, lo so. Per me è nulla, ma lei l'ho uccisa, uccisa. Non lo sopporterà, non lo sopporterà». «Chi?» domandò Rostov. Mia madre, il mio angelo adorato, mia madre». E Dolokhov si mise a piangere, stringendo la mano di Rostov. Quando si fu un poco calmato, raccontò a Rostov che abitava con la madre, e che se questa lo avesse veduto moribondo non avrebbe resistito, e scongiurò Rostov di andare da lei e di prepararla. Rostov andò innanzi per eseguire l'incarico, e con sua grande sorpresa seppe che Dolokhov, quel cattivo soggetto, quello spadaccino di Dolokhov, abitava a Mosca con la vecchia madre e una sorella gobba, e che era il più tenero dei figli e dei fratelli. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it